pollo, la cash nella pollo, io sono il più pollo, il signor lo pollo, la white nella pollo, che ta me lo pollo, il wack me lo pollo, con la me la pollo, con bass me la pollo, poi me me la pollo, io sono il più pollo, il signor lo pollo. Pignolo corrente, fra non disco da niente, a pamela la pugnao, si non sa morto viene, state più tranquillo, ne vado si viene, si mira una manina, vire non fermo. Pignolo corrente, fra non disco da niente, a pamela la pugnao, si non sa morto viene, state più tranquillo, ne vado si viene, si mira una manina, vire non fermo. I vengo al mondo con la sana impronta, ancora poca monta, ne esiste una forma di confronto, ando confondo, chi la casa fionda, affonda, la mano affronta, what the fai mo? Pura cappella, malicca cappella, tappene, pivella, con manchio tappelli, con slang, macella, tengo lingua bullente, pasti ribelle, studiate il livello, non ho nuovo martello, senza far provi smascella. Capote ladra loca, can la tu capa, ogni bomba rombi capa, un capo zombie rombo rombi capa, come pianta rambicante, cresce rombi pianta, quando po' di laga, bocca mi mai draga. Ho drogata, ma mi drogherati, vado a giochi, più loca, quando suonate strumentale, capate, cavallo, la forza esterna, rustate o papate. Me fio di Mariva, te ne vengo a un gripad. Pignolo corrente, fra non disco da niente, a pamela la pugnao, si non sa molto viene. State più tranquillo, e vado si viene. Si mira una manina, vire non fermo. Pignolo corrente, fra non disco da niente, a pamela la pugnao, si non sa molto viene. State più tranquillo, e vado si viene. Si mira una manina, vire non fermo. Sarà funky, sound the beat. Tonico 70, Fabio Mef, e già sai. Eh sì, ho poi riuscito a asci, però prima ci lasci. Casa rima crudo come sushi, si chiamuscia, a faccia non si culto come John Belushi. Isterico come Maputo, andato parrucchiere, che non si vuole fuscia duscia. Non ci conosce, come cospirazione George W. Bush. Tu non disco da niente, con varie rampa tutte componenti. Con buono l'andamento, si accompagni di senda, parola avvienda, pensiera assenta. Roba senza senso e non può fare screzia. Si fanno in fascia verde come gnomi l'assenzia. Life is a murderer, l'hip hop è morta, ma cookie porta cosa rinascerà cala ta coppola. Parlami in verità, non te raccontami frottola. Like Disney, è un copione Francis Ford Coppola. Pignolo corrente, fra non disco da niente, a pamela la pugnao, si non sa molto viene. State più tranquillo, leva da si viene. Si vira una manina, vire non fermo. Pignolo corrente, fra non disco da niente, a pamela la pugnao, si non sa molto viene. State più tranquillo, leva da si viene.